Anna dai capelli rossi, volume 4, La casa dei salici al vento. Il primo anno. Capitolo primo. Lettera di Anna Shirley, direttrice di Summerside High School, a Gilbert Blythe, studente in medicina al Redmond College di Kingsport. Windy Willows, salici al vento, Spokes Lane, Monday, September the 12th. Carissimo, questo sì che è un indirizzo. Hai mai sentito niente di altrettanto incantevole? Salici al vento è il nome della mia nuova casa e lo adoro. Adoro anche Viale dello Spettro, che ufficialmente non esiste. Sarebbe Trent Street, ma nessuno lo chiama mai Trent Street, se non nelle rare occasioni in cui compare nel Weekly Courier, il giornale locale. Allora la gente si guarda stupita e chiede dove mai sarà. Comunque resta Spokes Lane, anche se non so dirti per quale motivo. L'ho già chiesto a Rebecca Diu, ma sa solo che si è sempre chiamato Spokes Lane e anni fa si diceva che fosse frequentato da fantasmi. Ma lei non ha mai visto qualcosa di aspetto peggiore rispetto a lei in esso. Ma non devo precorrere i tempi. Tu non conosci ancora Rebecca Diu, ma la conoscerai e come? Prevedo che ti parlerò spesso di lei nella mia futura corrispondenza. È l'imbrunire. Dusk, mio caro. Tra parentesi, dusk non è una bellissima parola? La preferisco a crepuscolo, twilight. Ha un suono morbido, ombroso e bruno, dusky. Durante il giorno appartengo al mondo, durante la notte al sonno e all'eterno, ma all'imbrunire non sono né dell'uno né dell'altro e appartengo soltanto a me stessa e a te. Perciò questa sarà l'ora che dedicherò sempre a scriverti. Ma ora non aspettarti una lettera d'amore. Ho una penna che scricchiola, scratchy pen, e non so scrivere lettere d'amore quando la penna scricchiola, graffia o è spuntata. Dovrai aspettare finché non avrò la penna adatta. Intanto voglio dirti tutto sul mio nuovo domicilio e sui suoi inquilini. Oh, Gilbert, sono dei tesori. Sono venuta qui ieri per cercare una pensione. Mi ha accompagnata la signora Rachel Lind con la scusa di dover fare alcune spese, ma sono certa che in realtà voleva scegliermi la pensione. Nonostante i miei studi e la mia laurea in lettere, la signora Lind mi crede ancora una fanciulla inesperta, bisognosa di guida, controllo e cure. Abbiamo preso il treno e non mi va a capitare una cosa bellissima e buffissima. Sai che le avventure non vado a cercarmele, ma a quanto pare sono loro a cercare me. Il fatto è successo quando il treno stava per fermarsi in stazione. Mi alzai e, chinandomi per raccogliere la valigia alla signora Lind, intendeva trascorrere la domenica con un'amica a Summerside, poggiai con forza le nocche su quello che presi per un bracciolo reso lucido dall'uso. Le mie povere nocche ricevettero un colpo violento che mi fece quasi urlare. Oh, Gilbert, avevo scambiato la testa calva di un signore per un bracciolo. Dovevo averlo svegliato e mi incenerì con lo sguardo. Tentai di scusarmi e scesi dal treno in tutta fretta. Continuò a incenerirmi finché non mi vide più. La signora Lind rimase inorridita e a me fanno ancora male le nocche. Non credevo di avere problemi per trovare una pensione, dato che da 15 anni a questa parte una certa signora Tom Pringle ha sempre tenuto a pensione i vari presidi. Ma per qualche ignota ragione si è a un tratto stancata di avere seccature, parole sue, e non ha voluto prendermi. Nei posti che sarebbero andati bene opposero un cortese rifiuto e gli altri non andavano bene affatto. Girammo la città in lungo e in largo per tutto il pomeriggio fino a essere accaldate, stanche, demoralizzate e con il cerchio alla testa, perlomeno io. Ero ormai pronta ad arrendermi quando comparve all'orizzonte Spokes Lane. Avevamo fatto una breve visita alla signora Braddock, una vecchia amica della signora Lind, e la signora Braddock disse che forse avrei potuto sistemarmi dalle vedove. Ho sentito dire che vorrebbero qualcuno a pensione per pagare Rebecca Diu. Non possono più permettersi di tenere Rebecca, a meno che non gli entri qualche extra. E se Rebecca va via, chi mai mungerà la vecchia mucca rossa? La signora Braddock mi squadrò severamente, quasi che la mucca rossa dovessi mungerla io, e lei non credesse alla mia vantata capacità di farlo. Di quali vedove parli? chiese la signora Linde. Ma come, zia Kate e zia Cetty? Disse la signora Braddock, come se dovesse saperlo chiunque, anche l'ultima delle laureate in lettere. Zia Kate è la signora Amasa McCumber, vedova del capitano, e zia Cetty è la signora Lincoln McLean, vedova e basta. Ma tutti le chiamano zie, vivono a Spooks Lane, nel viale dello spettro. Era fatta. Ah, dovevo a ogni costo diventare pensionante delle vedove. Andiamoci subito, dissi con tono implorante alla signora Linde. Mi sembrava che bastasse solo un attimo a far sparire per sempre Spooks Lane nel mondo delle fiabe. Andate pure, ma sarà Rebecca a decidere. È Rebecca Dew che la fa da padrona a Windy Willows. Parola mia. Windy Willows, salici ventosi, salici al vento. Non era vero, non era possibile, stavo sognando. La signora Rachel Linde invece osservò che era un nome bizzarro. Oh, gliel'ha dato il capitano McCumber, era a casa sua. Piantò i salici tutto attorno e ne andava molto fiero, anche se a casa c'era di rado e non si fermava mai a lungo. Zia Kate diceva che era una scomodità, ma non siamo mai riusciti a capire se si riferisse al fatto che restava troppo poco o al fatto che tornasse. Beh, signorina Shirley, spero che la prendano. Rebecca Dew è una buona cuoca e fa miracoli con le patate. Se lei le andrà a genio, sarà come dormire tra due guanciali. Altrimenti niente da fare. So che in città c'è un impiegato di banca che cerca una pensione e magari preferirà lui. È strano che la signora Tom Pringle non abbia voluto alloggiarla. Summerside è piena di Pringle, le parenti dei Pringle. Li chiamano la famiglia reale. E dovrà entrare nelle loro grazie, signorina Shirley, se vorrà sopravvivere nel liceo di Summerside. Hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo qui da noi. C'è una via che porta il nome del defunto capitano Abraham Pringle. Sono un vero e proprio clan e a capo di tutti ci sono le due vecchie di Maplehurst. Ho sentito che ce l'avevano con lei. E perché mai? Esclamai. Io non le conosco affatto. Beh, un loro cugino di terzo grado ha presentato domanda per il posto di preside e secondo loro quel posto sarebbe spettato a lui. Quando è stata scelta lei, tutta la tribù è scesa sul piede di guerra. Beh, la gente è fatta così. Dobbiamo prenderla per quello che è. La tratteranno con i guanti, ma la osteggeranno in ogni modo. Non voglio scoraggiarla, ma uomo avvisato, mezzo salvato. Spero che lei si faccia onore, se non altro per far dispetto ai Pringle. Se lo vedo e la prenderanno a pensione, non le dispiacerà mangiare con Rebecca Dew, vero? Non è una domestica, è una lontana cugina del capitano. Non siede a tavola quando ci sono ospiti. Sa qual è il suo posto, ma se lei fosse a pensione, naturalmente non verrebbe considerata un ospite. Assicurai alla signora Braddock la mia piena disponibilità a mangiare con Rebecca Dew e trascinai con me la signora Linde. Dovevo assolutamente arrivare prima dell'impiegato di banca. La signora Braddock ci seguì fino alla porta. Badi di non urtare la suscettibilità di zia Cetty. Basta poco. È tanto sensibile, povera cara. Sa, ha meno denaro di zia Kate, anche se nemmeno zia Kate ne ha molto. E poi zia Kate voleva davvero bene al marito, al suo. E invece, beh, zia Cetty non gliene voleva un granché al suo. Sfido io. Lincoln McLean era un tipo parecchio originale, ma lei crede che la gente gliene faccia un torto. È una fortuna che sia sabato. Se fosse venerdì, zia Cetty non prenderebbe nemmeno in considerazione la sua richiesta. Ma la superstiziosa non dovrebbe essere zia Kate? Si chiederà. I marinai ci sono portati, invece lo è zia Cetty, che aveva il marito maestro d'ascia. Era una bellezza ai suoi tempi, povera cara. Assicurai alla signora Braddock il mio sacro rispetto per i sentimenti di zia Cetty, ma lei continua a seguirci lungo il viale. Kate e Cetty non frugheranno tra le sue cose in sua assenza, sono molto discrete. Magari lo farà Rebecca Dew, ma terrà la bocca chiusa. E non mi presenterei al portone d'ingresso se fossi in voi. Se ne servono soltanto nelle occasioni importanti. Credo che non l'abbiano più aperto dopo il funerale di Amasa. Passate dalla porta di servizio. Tengono la chiave nel vaso sul davanzale. Se non c'è nessuno, aprite la porta e aspettate in casa. E lei, badi di non fare complimenti al gatto, perché Rebecca Dew lo detesta. Promisi di non fare complimenti al gatto e finalmente ce ne andammo. Poco dopo eravamo in Spooks Lane. È una breve stradina che sbuca in aperta campagna con un colle azzurrino che le fa da fondale in lontananza. Su un lato non ci sono case e il terreno digrada verso una baia. Sull'altro ce ne sono solo tre. La prima è una casa normale, punto e basta. Quella dopo è grande, imponente, tetra e di mattoni rossi con decorazioni di pietra. Ha una mansarda fitta di abbaini, una ringhiera di ferro attorno al tetto, a terrazza, e uno stuolo di abeti verdi e rossi che la nascondono quasi alla vista. Dentro deve essere terribilmente buia. La terza e ultima è Windy Willows, proprio all'angolo, con una facciata sulla stradina erbosa e un'altra su un'autentica strada di campagna ombreggiata da alberi. Me ne sono subito innamorata. Sai, ci sono case che ti colpiscono al primo sguardo, chissà per quale ragione. Windy Willows è una di queste. Potrei descrivertela come una casa di legno bianca, anzi bianchissima, con imposte verdi, anzi verdissime, con una torretta d'angolo e un abbaino sui due lati. Un basso muretto di pietra che la divide dalla strada, costeggiato da salici disposti a distanza regolare, e un grande giardino sul retro dove fiori e verdure crescono in felice armonia. Ma tutto questo non può darti l'idea del suo fascino. In breve, è una casa con una sua simpatica personalità e qualcosa dell'atmosfera di Green Gables. Questo è il posto per me. Era prestabilito, ho detto estasiata. La signora Linde si mostrò scettica sul prestabilito. È una bella camminata da qui alla scuola, disse con tono dubbioso. Non importa, mi farà bene muovermi. Oh, guardi quel boschetto di betulle aceri al di là della strada, è incantevole. La signora Linde guardò, ma si limitò a dire: Spero che le zanzare non ti daranno fastidio. Lo spero anch'io, detesto le zanzare. Una zanzara riesce a tenermi sveglia più di un rimorso di coscienza. Per fortuna non ci toccò entrare dal portone d'ingresso. Era un minaccioso e grande affare di legno massiccio a due battenti, fiancheggiato da pannelli di vetro rosso lavorato con motivi floreali. La porticina verde di servizio che raggiungemmo su un vialetto di sottili lastre di arenaria, affondate a intervalli nell'erba, era molto più simpatica e invitante. Il vialetto si snodava accanto ad aiuole ordinate e ben tenute di canarie, agigliti grati, garofani, amazzetti, artemisie, velo da sposa, margheritine bianche e rosse, di quelle che la signora Linde chiama pineys. Naturalmente non erano tutti fioriti, ma si vedeva che erano fioriti a tempo debito e in grande profusione. In fondo c'era un angolo coltivato a rose e tra Windy Willows e la tetra casa vicina un muro di mattoni ricoperto di vite vergine, in cui si apriva una stinta porticina verde sormontata da un pergolato a forma di arco. Un rampicante cresceva sulla porta, segno che da tempo non veniva aperta. In realtà era solo una mezza porta, perché la parte superiore era un rettangolo aperto attraverso cui si intravedeva la giungla dell'altro giardino. Entrando nel giardino di Windy Willows, scorsi, vicino al sentiero, un ciuffo di trifoglio. Un impulso mi spinse a chinarmi. Ci crederesti, Gilbert? Lì davanti a me c'erano addirittura tre quadrifogli, se non sono buoni auspici questi, più forti anche dei Pringle. Allora capii che l'impiegato di banca aveva perso. La porta di servizio era aperta, era perciò evidente che c'era qualcuno in casa e non dovemmo cercare sotto il vaso da fiori. Bussammo e venne alla porta Rebecca Dew. Sapevamo che era Rebecca Dew perché non avrebbe potuto essere nessun altro. E non poteva che chiamarsi così. Rebecca Dew è sulla quarantina e se un pomodoro avesse dei capelli neri che scappano dalla fronte, occhietti neri vivaci, un nasino a patatina e una bocca fatta a fessura, allora sarebbe perfettamente uguale a lei. Tutto in lei è un po' troppo corto. Braccia, gambe, collo e naso, ma non il sorriso. È tanto lungo che va da un orecchio all'altro. Ma non sorrise subito. Aveva un'aria molto compassata quando le chiesi se potevo parlare con la signora McCumber. Vuol dire la signora del capitano McCumber? Domandò in tono di riprovazione, come se in casa ci fossero una dozzina di signore McCumber. Sì, dissi timidamente. Venimmo introdotte nel salotto e lasciate ad attendere. Era una stanzetta simpatica, anche se un po' sovraccarica di coprischienali, copribraccioli, e vi si respirava un'atmosfera tranquilla e accogliente. I posti dei mobili dovevano essere stati gli stessi da anni, e come brillavano quei mobili! Era un lucido da specchio che nessun prodotto di pulizia poteva dare. Era evidentemente merito dell'olio di gomito di Rebecca Dew. La signora Lind si interessò al veliero nella bottiglia che si trovava sulla mensola del caminetto. Non riusciva a capire come avesse fatto a entrarci, ma a suo parere dava alla stanza un'aria marinaresca. Finalmente arrivarono le vedove. Mi piacquero subito. Zia Kate era alta, magra, grigia e un po' austera, lo stesso tipo di Marilla, e zia Cetty era bassa, magra, grigia e un po' svagata. Doveva essere molto graziosa un tempo, ma di quella bellezza sono rimasti solo gli occhi, belli davvero, dolci, grandi e scuri. Spiegai lo scopo della mia visita e le vedove si scambiarono un'occhiata. Dobbiamo consultare Rebecca Dew, disse zia Cetty. Senza alcun dubbio, disse zia Kate. Rebecca Dew venne chiamata dalla cucina. Con lei arrivò anche il gatto, un grande maltese dal pelo morbido, con il petto e il collare bianchi. Ero tentata di accarezzarlo, ma ricordando l'avvertimento della signora Braddock lo ignorai. Rebecca mi guardò fissamente, senza l'ombra di un sorriso. Rebecca, disse zia Kate, che, come ho scoperto, non è solita sprecare parole. La signorina Shirley vorrebbe fermarsi a pensione qui, ma credo proprio che ciò non sia possibile. E perché no? Disse Rebecca Dew. Ti darebbe troppo da fare, disse zia Cetty. Oh, al da fare ci sono abituata, disse Rebecca Dew. Non si possono separare questi due nomi, Gilbert, è impossibile, ma non per le vedove. Quando le parlano la chiamano Rebecca, non so come ci riescono. Siamo ormai troppo vecchie per abituarci agli andirivieni di una persona giovane, insistette zia Cetty. Parlate per voi, ribatté Rebecca Dew. Io ho solo 45 anni e ho ancora l'uso di tutte le facoltà. Io credo invece che sarebbe bello avere una persona giovane in casa. Comunque meglio una ragazza che un ragazzo. Quello fumerebbe giorno e notte e ci farebbe morire bruciate nel letto. Se dovete prendere qualcuno a pensione, io consiglierei lei. Però le padrone siete voi. Così parlò e scomparve, come è solito dire Omero. Ormai sapevo che la faccenda era sistemata, ma zia Cetty insistette perché salissi a vedere se la camera era di mio gradimento. Le daremo la camera nella torretta, mia cara. È un po' più piccola della camera degli ospiti, ma ha la canafumaria per una stufa e una vista molto più bella. Si vede il vecchio cimitero. Sapevo che la camera mi sarebbe piaciuta. Bastava emozionarmi soltanto il nome, Camera nella torretta. Mi sembrava di vivere in quella canzone che cantavamo a scuola da Avonlì, quella della donzella nell'alta torre sulla riva di un grigio mar, ricordi? Si confermò un posto incantevole. Ci arrivammo per una breve scaletta a chiocciola che saliva dal ballatoio. Era piuttosto piccola, ma non certo piccola quanto l'orribile camera che ebbi al college nel primo anno passato a Redmond. Aveva due abbaini, uno quadrato rivolto a ovest e uno triangolare rivolto a nord. Nell'angolo formato dalla torretta c'era un'altra finestra con tre lati aperta verso l'esterno, con sotto scaffali per i libri. Sul pavimento erano stesi tappeti rotondi fatti in casa, il grande letto aveva un baldacchino e una trapunta e appariva tanto liscio e perfetto che pareva un peccato rovinarlo dormendoci. Pensa, Gilbert. Tanto alto che devo arrampicarmici con una buffa scaletta mobile che durante il giorno resta infilata sotto. A quanto pare, il capitano McCumber comprò tutto quanto all'estero e se lo portò a casa. C'era una deliziosa angoliera con i ripiani rivestiti di carta bianca smerlata e mazzolini di fiori dipinti sull'anta. Nel muro della torretta era ricavato un sedile con un cuscino celeste rotondo fermato al centro da un bottone. Più che un cuscino, sembrava una ciambella. E c'era un delizioso lavabo a due ripiani, quello di sopra con il posto per una catinella e una brocca azzurra e quello di sotto per il portasapone e il brico dell'acqua calda. Aveva un piccolo cassetto con la maniglia di ottone pieno di asciugamani e sul ripiano c'era una damina di porcellana bianca con le scarpe rosa, la fosciacca dorata e una rosa di porcellana rosa nei capelli biondi di porcellana. L'ambiente era illuminato dalla luce che filtrava attraverso le tende color del grano e c'era una preziosa tappezzeria sulle pareti imbiancate. La tappezzeria vivente, mutevole e pulsante, formata dalle ombre dei salici del giardino. Mi parve subito una camera tanto allegra. Mi sentivo la ragazza più ricca del mondo. Oh, sarai al sicuro qui, questo è certo, disse la signora Linde quando fumo uscite. Credo che mi sentirò un po' alle strette, abituata com'ero alla libertà di Patty's Place, dissi per provocarla. Libertà! Sbottò la signora Linde. Libertà! Non parlare come una Yankee, Anna. Sono venuta qui oggi con armi e bagagli. Naturalmente mi è dispiaciuto un mondo lasciare Green Gables. Per quanto ne stia lontana, appena sono in vacanza ritorno a farne parte, come se non fossi mai andata via, e lasciarla mi strazia l'anima. Ma so che starò bene qui e che vado a genio alla casa. So sempre se vado o non vado a genio a una casa. La vista dalle finestre è bellissima. Persino il vecchio cimitero, con il suo cerchio di abeti scuri e il serpeggiante vialetto d'accesso che costeggia il terrapieno. Dalla finestra occidente domino il porto e la linea sfocata della costa lontana. Vedo le mie adorate barchette e le navi che fanno vela per porti sconosciuti. Non è una frase piena di fascino? Lascia spazio alla fantasia. Dalla finestra nord scorgo il boschetto di betulle e aceri di là dalla strada. Sai che ho sempre adorato gli alberi. Quando studiavamo Tennyson per l'esame di inglese a Redmond, sentivo come mio il dolore della ninfa Enone che piange i suoi pini perduti. Di là dal boschetto e del cimitero c'è una amena valle attraversata dal lucido nastro rosso di una strada e punteggiata da case bianche. Certe valli sono amene, chissà perché. Solo guardarle ti riempie di piacere. Ancora oltre c'è il mio colle azzurro. Lo chiamerò re della tempesta, il dominio della collera, eccetera, eccetera. Quassù posso essere davvero sola quando voglio. Sai, è bello stare da soli di quando in quando. I venti saranno amici miei, gemeranno, sospireranno e canteranno sommesse canzoni attorno alla mia torretta. Ci saranno i venti dell'inverno, i venti verdi della primavera, i venti azzurri dell'estate, i venti rosso vivo dell'autunno e i venti violenti di tutte le stagioni. Vento di tempesta, fedele alla parola. È un versetto della Bibbia che mi dà i brividi, quasi che ogni vento avesse un messaggio per me. Ho sempre invidiato il ragazzo del bel racconto di George MacDonald che fugge sulle ali del vento del nord. Una notte o l'altra, Gilbert caro, aprirò la finestra della torretta e mi affiderò alle braccia del vento. Così Rebecca Dio non saprà mai perché il mio letto è rimasto intatto. Spero, tesoro mio, che la casa dei nostri sogni sarà circondata dai venti. Dove la troveremo mai, questa casa sconosciuta? Mi piacerà di più all'alba o ai raggi della luna, la casa del futuro dove ci ameremo, ci sosterremo e lavoreremo. Divertendoci anche, per poterne poi ridere quando saremo vecchi. Ma saremo mai vecchi, Gilbert? Sembra impossibile. A sinistra, dalla finestra della torretta, vedo i tetti della città dove vivrò per un anno almeno. Non conosco ancora nessuno, ma la gente che abita a queste case sarà amica mia. E forse mia nemica, dato che la genia dei Pai è dappertutto sotto i nomi più diversi e io ho già capito che dovrò fare i conti con i Pringle. La scuola incomincia domani. Dovrò insegnare la geometria. Spero ardentemente che tra i Pringle non ci siano geni matematici. Sono qui solo da 2 giorni e mezzo, ma mi sembra di conoscere le vedove e Rebecca Dio da una vita. Mi hanno chiesto di chiamarle zie e io ho chiesto che mi chiamino Anna. Ho chiamato Rebecca Dew signorina Dew una volta sola. Signorina, che cosa? Ha detto lei. E Dew, ho risposto con un filo di voce. Non si chiama così? Beh, sì, mi chiamo così, ma non mi chiamano signorina Dew da tanto tempo che mi ha fatto impressione. È meglio che non lo dica più, signorina Shirley, perché non ci sono abituata. Beh, me ne ricorderò, Rebecca. Diu, dissi sforzandomi invano di tralasciare il Diu. La signora Braddock aveva ragione a dire che zia Cetty è sensibile. L'ho scoperto durante la cena. Zia Kate aveva detto qualcosa sul 66esimo compleanno di Cetty e guardando zia Cetty mi accorsi che era... No, dire scoppiata in lacrime è un'esagerazione, si era semplicemente sciolta. Le lacrime scendevano dai suoi grandi occhi castani e le rigavano le guance in silenzio. Che c'è, Cetty? Chiese zia Kate. Era solo il 65esimo compleanno, disse zia Cetty. Oh, ti chiedo scusa, Charlotte, disse zia Kate. E il sole tornò a splendere. Il gatto è un bel gattone con gli occhi dorati, un elegante mantello scuro da maltese e irreprensibili macchie bianche. Zia Kate e zia Cetty lo chiamano Dusty Miller perché si chiama così. Rebecca Diu lo chiama il gatto perché sopporta malamente lui e il fatto di dovergli dare un grosso pezzo di fegato mattina e sera, oltre a dovergli togliere i peli dalla poltrona del salotto con un vecchio spazzolino da denti tutte le volte che vi si intrufola e a doverlo andare a cercare se tarda. A rientrare la sera. Rebecca Diu ha sempre odiato i gatti, disse zia Cetty, e odia Dusty in modo particolare. Il cane della vecchia signora Campbell, quando ce l'aveva ancora, lo portò qui in bocca 2 anni fa. Probabilmente capiva che sarebbe stato inutile portarlo alla signora Campbell. Povero micino, affamato, bagnato fino al midollo, con le ossa che spuntavano sotto la pelle. Ci voleva davvero un cuore di pietra per non dargli asilo. Così Kate e io l'abbiamo adottato, ma Rebecca Diu non ci ha mai perdonato del tutto. Non fummo diplomatiche quella volta, avremmo dovuto rifiutarci di accoglierlo. Non so se ha notato. Zia Cetty lanciò un'occhiata di controllo alla porta che divide la sala da pranzo dalla cucina. Come ci regoliamo con Rebecca Diu? L'avevo notato e con grande soddisfazione. Rebecca Diu può pure essere convinta. E Summerside con lei, di farla da padrona, ma le vedove la pensano diversamente. Non volevamo prendere in casa l'impiegato di banca. Ospitare un giovanotto sarebbe stato un bell'imbarazzo e avremmo dovuto preoccuparci se non andava regolarmente in chiesa. Ma abbiamo fatto finta di volerlo prendere e Rebecca Diu si è opposta. Sono contenta che lei sia qui, cara, e sono certa che sarà bello cucinare per lei. Spero che finiremo per piacerle. Rebecca Diu ha delle ottime qualità. 15 anni fa, quando è venuta qui, non era pulita come ora. Una volta Kate fu costretta a scrivere Rebecca Diu sullo specchio coperto di polvere, ma lo fece una volta sola. Rebecca Diu capisce tutto alla prima. Spero che troverà la camera abbastanza comoda, mia cara. Può tenere la finestra aperta durante la notte. Kate non è favorevole all'aria della notte, ma sa che ai pensionanti spettano dei privilegi. Io e lei dormiamo insieme. E siamo giunte all'accordo di lasciare la finestra chiusa una notte per lei e lasciarla aperta per me la notte dopo. Si possono sempre risolvere i piccoli problemi, vero? Se c'è la buona volontà, il modo lo si trova. Non si spaventi se sente circolare Rebecca di notte. Sente sempre dei rumori e si alza per scoprire di che si tratta. Credo che sia per questo che non voleva saperne di ospitare l'impiegato di banca. Temeva di incontrarlo in vestaglia. Spero che non le secchi se Kate parla poco. È fatta così. E avrebbe tanto di cui parlare. È stata in tutto il mondo con Amasa McCumber in gioventù. Vorrei avere io gli spunti per la conversazione che ha lei. E invece io non mi sono mai allontanata dall'isola. Mi sono chiesta spesso perché il caso ha voluto che io, che ho voglia di parlare, non ho niente di cui parlare e Kate, che avrebbe tanto di cui parlare, detesta farlo. Ma... Lasciamo stare. Anche se zia Cetty è una buona parlatrice, tutto questo non l'ha detto di filato. Esponevo i miei commenti nei momenti di pausa, ma senza alcun seguito. Le vedove hanno una mucca nella stalla di James Hamilton, poco lontano da qui, e Rebecca Diu va a mungerla. C'è panna di qualità e mi risulta che mattina e sera Rebecca Diu passi un bicchiere di latte fresco nel varco della porticina del giardino alla donna della signora Campbell. È per la piccola Elizabeth e gliel'ha ordinato il dottore. Chi sia questa donna e chi sia la piccola Elizabeth, devo ancora scoprirlo. La signora Campbell è la proprietaria della vicina fortezza che si chiama Evergreens. Non credo che dormirò stanotte. Non dormo mai la prima notte in un letto nuovo e questo è il letto più strano che abbia mai visto. Ma non importa. Ho sempre amato la notte e non mi dispiacerà restarmene sdraiata a pensare alla vita passata, presente e futura, specialmente a quella futura. Questa è una lettera micidiale, Gilbert. Non te ne imporrò più di tanto lunghe, ma volevo dirti tutto perché tu potessi immaginarmi nel mio nuovo ambiente. Ora è finita, perché la luna che brilla sul porto tramonta nel regno delle ombre. Devo ancora scrivere una lettera a Marilla. Arriverà a Green Gables dopodomani. Davy la porterà a casa dall'ufficio postale, aspetterà con Dora che Marilla la apra e la signora Linde terrà le orecchie bene aperte. Oh cielo! Mi è già venuta nostalgia di casa. Oh! Buonanotte, tesoro. Da chi è e sarà per sempre la tua affezionatissima Anna Shirley.